Italia in controluce. Buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati con la cronaca su Radio 24, i fatti e i personaggi, le storie che non avete sentito altrove. Questa è l'Italia in controluce. La prossima manifestazione sarà il 1° giugno da parte dei commercianti di Sestri Levante. Anche loro chiederanno di non chiudere lo stabilimento Fincantieri di Genova, Riva Trigoso, che ha dato fino ad oggi occupazione, indotto, ma anche una spinta economica all'intera Liguria. Il piano annunciato da Fincantieri è un taglio netto rispetto a questo passato: 2.551 gli esuberi, chiusura dei cantieri di Riva e di Castellammare a Napoli. Si tratta in queste ore tra il governo, azionista e mediatore e i sindacati. Ma in Liguria che cosa ha significato il cantiere navale per eccellenza e che cosa succederebbe qualora dovesse davvero chiudere? Andrea Ferro. Sestri e Ponente senza la Fincantieri sarebbero comunque una città che perde la sua componente industriale, perde una fetta importante della sua componente industriale, e una città di questo tipo è una città più piccola, più povera soprattutto, che ha minori opportunità per il futuro. Genova è il mare, il porto e le navi, navi che caricano e scaricano e navi che qui prendono forma come d'incanto, come in un formicaio dove i pezzi più piccoli si assemblano uno sull'altro in un vorticoso concerto di idee, di fantasia, di intuizioni, di braccia, di sudore. Le stampe del 600 testimoniano che all'epoca qui a Sestri Ponente, una città nella città, già si costruivano i velieri. Una vocazione, una tradizione che ora il piano industriale di Fincantieri cancella con un colpo di spugna, minando l'ultimo avamposto di quel triangolo industriale che all'ombra della lanterna aveva innescato lavoro e ricchezza, calamitando immigrati dal nord e dal sud e oggi dall'est europeo, dal Maghreb, dall'estremo oriente. Ancora la voce di Stefano Bernini, presidente del municipio. Oggi Fincantieri impiega direttamente circa 750 lavoratori, ma il peso economico e sociale su Sestri e sulla città non riguarda soltanto questi, perché poi anche tutte le ditte che lavorano dentro e che sono altrettanti lavoratori in termini numerici sono comunque persone che vivono su Genova, che a Genova consumano, che partecipano alla vita civile genovese, e poi soprattutto c'è una rete fitta di imprese piccole e medie che producono i materiali che poi Fincantieri utilizza per la costruzione navale. E di conseguenza è un mondo intero che viene messo in difficoltà, è un mondo che è il tessuto industriale su cui è cresciuta anche il benessere della nostra città. A Genova, come a Riva Trigoso, come a Castellammare di Stabia, contro la chiusura dei cantieri navali la mobilitazione è corale. È una questione sociale, ma anche una questione di orgoglio, di salvaguardia della dignità del lavoro. Già negli anni Ottanta lo stabilimento di Sestri Ponente vacillò sotto i colpi della ristrutturazione dell'industria pesante dopo il deragliamento del carrozzone delle partecipazioni statali. Allora fu decisivo l'intervento del cardinale Giuseppe Siri, uno dei principi della Chiesa, per due volte vicino al soglio pontificio. E anche oggi la Chiesa torna in campo. Monsignor Luigi Molinari è il responsabile dei cappellani del lavoro della diocesi. Noi, Chiesa genovese, secondo una tradizione consolidata, noi cerchiamo di sensibilizzare le sedi opportune, i vari soggetti, e comportando anche degli elementi oggettivi che noi cogliamo dalla nostra presenza sul campo. Ecco perché, anche se diciamo cappellani non siamo moltissimi come una volta, però è pur sempre vero che abbiamo 8-9 cappellani che in tempo reale quotidianamente vivono al cantiere navale di Sesi, vivono nelle riparazioni navali, per cui alla disponibilità di informazioni eccetera da parte nostra aggiungiamo anche questa conoscenza diretta. Sugli scali del cantiere di Sestri Ponente sono sbocciati i giganti divenuti l'orgoglio e il vanto della marineria italiana. Era l'epopea dei transatlantici, scafi, linee, arredi, motori, in un combinato mix di genio, organizzazione, innovazione, efficacia produttiva. Nacque qui il Rex, che nel 1932 conquistò il nastro azzurro, cioè il record di traversata dell'Atlantico, in barba agli inglesi e ai tedeschi. E poi le corazzate, Roma, Duilio, ancora transatlantici, Andrea Doria, Leonardo e Michelangelo, ultima immensa icona di un'epoca già al tramonto cancellata dagli aerei. Lavoro e orgoglio, il crocevia di un'identità. Salvatore Vento, sociologo e storico. L'Italcantieri, questo era il nome storico dell'attuale cantiere navale Fincantieri, fa parte integrante dell'identità del movimento operaio genovese. Un'identità che appunto a Sestri è stata determinante e aveva anche dei momenti simbolici molto importanti, che erano quelli del varo della nave. Il varo della nave costituiva, non solo per Sestri Ponente ma anche per la città di Genova, il momento conclusivo esclusivo del frutto del lavoro operaio, e tutti i lavoratori e anche i dirigenti, i politici, i rappresentanti di tutte le istituzioni vedevano nella realizzazione del prodotto nave la conclusione di un saper fare operaio genovese. Ma Genova forse non può prescindere dalla sua essenza produttiva e sociale nel nome di una riconversione mai compiuta. Ancora Monsignor Luigi Molinari, cappellano del lavoro. Non si può pensare il sistema produttivo di Genova possa reggersi prevalentemente sulla grande distribuzione oppure soltanto sul turismo. Il settore industriale è fondamentale. Noi siamo già a quote praticamente talmente basse per cui viene pregiudicato proprio la stabilità e la buona sanità del tessuto stesso. Italia in controluce. Rovigo 138 multe a testa, Firenze 129 multe ad abitante ogni anno, Brescia 116 accertamenti in un anno pro capite. Sono le prime tre città in testa alla particolare classifica delle multe stilata dal Sole 24 Ore oggi in edicola e al quale trovate allegata anche una utilissima guida sulle multe stradali dal verbale al riscatto dei punti. In coda alla classifica delle città dove ci sono più multe c'è Vibo Valentia con solo 4 accertamenti a testa in un anno. Stratosferica poi la cifra raccolta nel complesso dai comuni, 1,4 miliardi di euro l'anno. Ne abbiamo parlato con il collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Sì, diciamo che dopo anni di corsa sfrenata di queste multe sempre più comode per i bilanci comunali, il 2009 per la prima volta fa segnare in maniera abbastanza netta un'inversione di tendenza, nel senso che le multe accertate, cioè proprio i verbali firmati dai capoluoghi di provincia, scendono di quasi il 9%, mentre in generale, comprendendo anche quindi i comunelli, i piccoli centri eccetera, scendono del 3% rispetto all'anno prima. Non è tantissimo, perché comunque rimane sempre 1,5 miliardi quasi all'anno di multe accertate, però insomma vista la corsa degli ultimi anni è un segnale di tendenza che qualcosa sta cambiando. Ecco, c'è una ragione per la quale c'è questa diminuzione oppure è stata così di un fatto anche un po' aleatorio, casuale? Beh, ce ne sono varie secondo me. Una che negli anni scorsi abbiamo visto e abbiamo puntualmente in questi monitoraggi annuali colto una serie di comuni magari di piccole dimensioni che hanno un pezzo di strada nel territorio comunale con un bel rettilineo dove si mette l'autovelox e lì sono multe a go-go. Questa tipologia unita a quella dei T-RED ha fatto finire molti sindaci in tribunale. I T-RED sono i semafori cosiddetti intelligenti che ti fotografano se passi col rosso. Queste cose, queste multe, diciamo, chiamiamole a ripetizione, hanno fatto finire molti sindaci in tribunale, ci sono stati processi eccetera, quindi un certo deterrente c'è stato. Il 2009 è stato anche un anno elettorale, per cui forse in qualche città rinnovo ha influito su indicazione ai vigili di essere un po' più permissivi. E forse terza cosa, si è veramente toccato il massimo negli ultimi anni. Secondo me è importante sapere che negli anni prossimi, nelle prossimi monitoraggi, probabilmente vedremo una diminuzione ancora più netta di queste multe, perché con la riforma del codice della strada i comuni non potranno più prendere tutti gli introiti delle multe fatte sulle strade statali, ma metà andranno allo Stato. Questo abbassa molto l'incentivo. Certo, perché non restano più in cassa i soldi, diciamo, vanno trasferiti poi allo Stato. Si può dire qualcosa sulla classifica che voi avete stilato, cioè nella parte alta e nella parte bassa c'è qualche città, qualche curiosità, qualche elemento? Sì, la prima cosa è che per la prima volta da anni Firenze perde il primato, diventa seconda perché in termini di multe pro capite, multe per cittadino, diventa seconda perché è superata, diciamo, in testa da Rovigo. Rovigo, piccola città che però già da anni faceva segnare anno su anno aumenti del 30%, 40%, 50% rispetto all'anno prima delle multe accertate, e questa corsa, diciamo, arriva al traguardo quest'anno portando gli abitanti di Rovigo a essere i più multati d'Italia. È un primato che non dà molta gioia, che però comunque ti fa finire sul giornale. Il sud invece in generale ha pochissime multe, soprattutto le città medie della Calabria e della Sicilia, l'ultima è Vibo Valentia, ma anche nelle grandi città c'è un problema diverso. Per esempio a Napoli le multe accertate sono molte, nel senso sono a livelli di città anche del nord. Il problema lì è come sempre la riscossione, nel senso che per esempio nel consuntivo del 2010 i revisori hanno scovato solo di multe 500 milioni di incassi mancati, multe verbali vecchi di anni scorsi messi ancora negli accertamenti, nel senso che tu nel bilancio accerti una data cifra ma poi la devi anche riscuotere. Il problema è che questi erano solo accertamenti e non riscossioni. 500 milioni in un bilancio come il Comune di Napoli solo per le multe è veramente tanto. Ed è tutto anche per questa puntata. Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete scriverci, raccontarci le vostre storie. Controluce @radio24.it. Buona giornata.